La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qui, amici, un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati al nostro appuntamento, come sempre, ogni sabato, ogni domenica, qui su Radio 24, a parlare di cinema alla rosa purpurea. Una settimana davvero molto molto ricca, si contano per la precisione 11 nuovi film, e questo la dice lunga anche su alcune schizofrenie della distribuzione italiana. Settimana scorsa c'erano 4 titoli nuovi in sala, questa settimana ce ne sono 11, e quindi diventa anche per il vostro cronista molto difficile scegliere, e abbiamo scelto come sempre le pellicole di cui tratteremo in particolare in questa puntata della Rosa Purpurea, in cui arrivano autori altisonanti come Tim Burton, film d'autore, un po' di cinema italiano, ma in cui avremo anche un grande ospite e parleremo del Festival di Cannes, che è ormai pronto ai nastri di partenza. Sentiamo tutto nei titoli di testa. Tim Burton torna sui suoi territori cinematografici abituali. Un po' Sleepy Hollow, un po' Sposa Cadavere, sbarca nelle sale italiane Dark Shadows, tratto dall'omonima serie anni 70 molto popolare negli Stati Uniti, con un pizzico di ironia e il suo attore di sempre, Johnny Depp. Un bambino ladruncolo in una stazione sciistica alpina. Una giovane donna che vive di piccoli lavori e cerca un amore che non c'è in una situazione che non è quella che sembra. Dopo il successo di Home, Ursula Meyer torna nelle sale con Sister, protagonista la bella Lee Seydoux, ammirata in Midnight in Paris di Woody Allen. Superpoteri al popolo. Fulminante esordio alla regia per Josh Trank con Chronicle, film indipendente a budget contenuto e ad alto impatto. Cosa succede se tre ragazzi poco più che adolescenti scoprono di avere superpoteri ma di non essere affatto supereroi? Sceneggiatura firmata da Max Landis, il figlio del grande John. Anderson, Cronenberg, Loach. Haneke, Garrone, René. Presidente Nanni Moretti. È la formazione Dream Team del 65esimo Festival di Cannes che si apre la settimana prossima. Ricognizione sui film da non perdere e intervista a un grande protagonista italiano, Claudio Simonetti, autore delle musiche del nuovo film di Dario Argento. Insomma, menù piuttosto ricco, come vedete qui alla Rosa Purpurea. Cominciamo subito con Sister. Allora, abbiamo 4 minuti di tempo per raccontarvi il primo dei film scelti tra le novità in sala di questa settimana. Una storia molto particolare. La firma Ursula Meyer, che con il suo precedente film Home aveva colpito nel segno un po' in tutto il mondo, soprattutto in Europa e soprattutto negli ambienti più cinefili, se vogliamo. Questo nuovo film Sister, presentato al Festival di Berlino, ambientato in una stazione sciistica sulle Alpi, racconta la storia di un rapporto apparentemente fratello-sorella maggiore, la storia di Simone, orfano, 12 anni, che vive facendo il ladruncolo nei pressi di St. Moritz, va a rubare sci, va a rubare caschi, va a rubare guanti, non disdegna neanche di mettere le mani nei portafogli e nelle tasche dei giubbotti, dei piumini appesi all'inizio degli impianti di risalita. Insomma, cerca di sbarcare il mare in questo modo, porta a casa il maltolto, lo nasconde, lo rivende e con questo contribuisce a sua, virgolette, famiglia composta da lui e da quella che lui chiama sister, appunto Louise, una giovane bella sbandata con diversi amanti che cerca l'amore e non lo trova mai. Questo è un po' l'assunto di partenza. Allora andiamo a farci un po' le orecchie rispetto a questo film, appunto Sister, con il trailer originale. Sei ben organizzato? È un po' come la tua stanza qui. Non è rischioso? Se ne fregano lassù. Ne comprano subito un altro paio. Non potevo tornare prima. Tutto bene? Sì. Stronzo! Vai a parte forte! E non tornare! Mi presti dei soldi? È merce di stoccaggio, signore. Le consiglio di prendere questo modello. Quanto costa il casco? 40. 40? E non hai amici o fratelli, sorelle? No, sono solo. Vuoi sederti con noi? Oh sì, grazie. Inutile dire che questo menage in realtà nasconde un segreto che si scoprirà e che sarà il vero epilogo, abbastanza sorprendente, del film. Inutile dire che c'è la summa di questo cinema figlio dei fratelli Dardenne, dentro il cinema di Ursula Meyer, i grandi silenzi, i personaggi quasi attoniti, visitati con lente scientifica, senza molto pathos, senza molto trasporto, in maniera piuttosto distaccata per metterli a contatto con l'ambiente che li circonda. Forse manca proprio quello, un po' di calore a questo film, un po' di presa di posizione che forse dentro Home, soprattutto con attraverso l'ironia, la chiave dell'ironia era presente, questa volta invece no, e il film della regista Ursula Meyer appunto forse ne denuncia un po' in questo senso qualche limite. Voglio ricordare la presenza della bellissima Lea Seydoux, protagonista assoluta qui in questo film, ma amata da milioni di spettatori in tutto il mondo per il suo ruolo della bella rigattiera francese che fa innamorare Owen Wilson in Midnight in Paris di Woody Allen. La ricorderete, la rivediamo in un ruolo di grande intensità, lei è davvero promossa assolutamente a pieni voti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, Rosa Purpurea, seconda parte, ancora film, ancora cinema in sala, ancora novità sul grande schermo d'Italia. Abbiamo detto 11 film, ne abbiamo sviscerato uno, il film di Ursula Meyer, Sister. Adesso parliamo di quella che è forse la novità più sorprendente di questo fine settimana, prima di parlare poi di Dark Shadows, che per molti dei nostri ascoltatori è sicuramente il film più atteso della settimana. Dicevo, una novità davvero interessante, molto particolare, molto originale, che ci dimostra come il cinema possa ancora essere fatto con le idee prima che con i soldi. Qui i soldi non è che ne manchino, pur essendo un film indipendente, ma insomma non sono quei capitali clamorosi, no? Che poi magari portano all'affossamento di aziende intere. Guardate cosa è successo, cosa sta succedendo con la Disney e con il suo ultimo film, John Carter. Ma insomma, il titolo del film di cui vi voglio parlare è Chronicle. È un titolo che è molto suggestivo, forse tiene quell'alone di mistero su quella che è la storia raccontata, ed è, come abbiamo sentito prima nei titoli che introduceva nel nostro programma, la storia di tre ragazzi che improvvisamente, dopo il contatto con un misterioso monolite, ma qui il grande Kubrick non c'entra, scoprono di avere dei superpoteri, dei veri e propri superpoteri, scoprono di poter muovere le cose con le mani, scoprono addirittura di poter volare, scoprono anche di poter fare del male, perché loro hanno i superpoteri ma non sono supereroi, non hanno l'animo del supereroe che deve salvare la Terra, quindi scordatevi quell'aspetto, anche se appunto volano, lottano e fanno tutto quello che si può fare con questi superpoteri. Rimangono tre ragazzi poco più che adolescenti con i loro problemi, che questi superpoteri quasi fanno altro che acuire piuttosto che risolvere. Questo è anche l'altro aspetto molto interessante di questo film indipendente, firmato alla regia da Josh Trank e scritto da Max Landis, figlio di cotanto padre, il grande John Landis. Ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Riprendilo con la telecamera. Non voglio il conto alla rovescia. La gomma da masticare, gliela tiro fuori dalla bocca. Fermi! Questo è mio, guardate! È rimasta imbambolata! La mia teoria è che stiamo diventando più forti. Guardate! Amico! Oh merda! Crede che sia stata rubata? Rubata? Sì, è stato un nero questa volta. Niente può fermarci. Matt! Dove vai? Smettila! Sarà un campagnolo. Ma che vuole questo qui? Ma che cazzo? Perché l'hai fatto? È stato un incidente, Andrew? Andrew! Sono preoccupato per Andrew. Non possiamo cazzeggiare! Che abbiamo fatto finora? È pericoloso! Andrew! Smettila subito! Vieni a vedere! Ragazzi, ma cos'è? Dai, entriamo! Steve, aspetta! Matt, guarda qui! Questa è la suggestione di Chronicle, film davvero molto riuscito, una delle novità più belle delle ultime settimane al cinema. mi ricorda un po' l'impatto, almeno la visione mi ha ricordato un po' l'impatto che ho avuto quando vidi Cloverfield, l'essere di fronte a qualcosa che, come dicevo prima, va oltre il budget, ma dove c'è intrattenimento, ci sono idee, c'è la capacità di tenere in mano la situazione dietro la macchina da presa e sul copione. Una cosa straordinaria di questo film è il modo della messa in scena, è la modalità della recitazione. Noi siamo di fronte a delle persone che sono normali dal primo all'ultimo minuto, che nonostante volino, nonostante lottino spostando le spade delle statue, per intenderci, nonostante possano provocare incidenti stradali e spostare macchine con la forza del pensiero, ebbene, non abbiamo mai la sensazione per un secondo che siano false. E questa è davvero la grande capacità che ha avuto il tandem sceneggiatore-regista. Boris Sollazzo è con noi, prima di parlare del Festival di Cannes, prima di parlare di Johnny Depp e Tim Burton. Chronicle promosso a pieni voti, sei d'accordo? Promossissimo a pieni voti, direi anche, tu hai citato Cloverfield, ma a mio parere questo film ha un impatto ancora maggiore proprio per tutti i motivi che tu hai detto. Probabilmente Buonsangue non mente e Max Landis si conferma all'altezza del padre, perché è proprio la quotidianità del superpotere che qui ti sconvolge. Si parte dal presupposto di Stan Lee, della Marvel: quando un superpotere arriva nelle mani di un adolescente, cosa succede? La Marvel si è abituato a questi supereroi che prendono coscienza, consapevolezza e maturità e decidono di utilizzarli a fin di bene. E qui abbiamo una sorta di visione di un adolescente alla Wolverine, invece, cioè chi trova un superpotere e ne fa l'uso che probabilmente tutti gli adolescenti ne farebbero. All'inizio diventa un gioco, poi il gioco scappa di mano e succede l'indicibile. Sostanzialmente dare un potere di vita e di morte a una persona instabile, e per definizione un adolescente è instabile, può essere la cosa più pericolosa e funesta che possa accadere. Ed è Chronicle, ha la sua forza proprio in questo, nel portare alle estreme conseguenze questa dinamica psicologica acuita appunto da questo superpotere che sostanzialmente è la telecinesi. Trovo che sia veramente straordinario il modo in cui è stato messo in scena questo presupposto e come è stato trattato, anche grazie a questi attori giovani, bravissimi, che fotografano perfettamente il disagio, grazie a un regista molto capace, anche umile nel lasciare spazio alla storia e alla scrittura di una storia a mio parere clamorosa, perché davvero Chronicle rischia di diventare un cult dei prossimi anni, perché rovescia completamente il senso dei film supereroistici, perché questi non sono supereroi, sono solo dei normali ragazzi con dei superpoteri. E sono dei normali ragazzi di superpoteri che da questi superpoteri vengono corrotti nella maniera più normale. Chi ce lo dice che se io o te, Franco, avessimo dei superpoteri non li utilizzeremmo così? Perché magari è qualcosa di troppo grande per noi. Ecco, l'intuizione può sembrare anche banale, ma poi la realizzazione, a mio parere, è assolutamente geniale. E allora, super promosso Chronicle, consiglio di questa settimana al cinema. Noi a questo punto apriamo la nostra prima parentesi con il gioco, perché dobbiamo giocare con il nostro game Tre tracce di un film misterioso, indovinatelo, e per il più bravo e veloce del sabato e della domenica ci sarà una copia in Blu-ray di questo film. E oggi giochiamo con un vero grande capolavoro recente, sentiamo. Quelle sono persone per bene che cercano di recuperare il paese, non sono criptofascisti cretini zombie. Ha detto così, ti ricordi? Comunque sia, non credo che la tua idea di farlo seguire sia molto pratica. La Rosa Purpura è @radio24.it. Forse alcuni di voi avranno già indovinato di che film si parla, ma partecipate numerosi perché ci saranno ancora due possibilità. È arrivato il momento di Johnny Depp e Tim Burton per l'ottava volta insieme in Dark Shadows, un film che, quando ho visto la locandina, ho detto: oh mamma, ancora una volta mi devo sciroppare un Tim Burton. Dico mamma perché quelli degli ultimi tempi non sono stati forse dei Tim Burton all'altezza della sua grande fama, perché traspariva e traspirava un sentore di Sleepy Hollow, più Sposa Cadavere, più Edward Mani di Forbice, eccetera. Cioè sembrava esserci un riassunto, una summa del suo cinema, insomma, farlo rivedere ancora quando hai fatto già capolavori di quel tipo. Invece le cose sono andate così, esattamente, cioè Dark Shadows è la summa del cinema di Tim Burton, ma con una novità segnata dalla grande ironia che pervade il testo e il contesto. Parliamo di un vampiro che si risveglia, che è Johnny Depp, con tra l'altro una conciatura improponibile, che si risveglia 200 anni dopo, nel 1972, ritrova la stessa nemica, una strega che lo aveva maledetto e fatto diventare vampiro 200 anni prima e che adesso, 200 anni dopo, è ancora lì a rompergli le scatole, ritrova la sua casa con i discendenti, gli avi, che sono gente del 72, insomma lui parla, si esprime e pensa come uno del 700, ci sono tante situazioni molto, molto divertenti, riaprirà la battaglia, la guerra contro questa strega, provando a vincerla una volta per tutte. Sentiamo una breve clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Guardami negli occhi e trasferiscimi i tuoi pensieri più reconditi. Risvegliati. Ben fatto. Ora, dimmi, la famiglia Collins perdura ancora? Ah, sì, sono in quattro attualmente. Cielo del cielo. Di grazia, in che mese siamo? Ottobre. Perciò ci sono le zucche. Qual è l'anno? 1972. 1972? Ascoltami, abitatore del futuro. Tu sarai mio fedele servo fino al momento in cui io ti libererò. Per prima cosa, padrone? Boris, alla fine è tutto sommato un prodotto gradevole, pur sempre un prodotto. Mi sembra che la vena innovatrice di Tim Burton non sia nel suo momento migliore. Non so se si sia esaurita, però non è sicuramente nel suo momento migliore. Però stavolta il prodotto è gradevole, tutto sommato ci si diverte proprio grazie a questa ironia di cui è pervaso il film. Sì, sono d'accordo. Devo dire che dopo la crisi del settimo film, insieme con Alice nel Paese delle Meraviglie, che purtroppo è a mio parere il film più brutto fatto da Tim Burton, arriva questo Dark Shadow che mi sembra un ottimo modo per leccarsi le ferite. Nel senso che Burton aveva bisogno di recuperare credibilità, secondo me, prima di tutto con se stesso. E va un po' sul sicuro, cioè riacquista quella vena ironica un po' dissacrante, riacquista un Johnny Depp un po' più in parte, un po' meno distratto nella recitazione, e sono d'accordo con te, Dark Shadows non è assolutamente all'altezza dei film migliori di Tim Burton, nel senso che non c'è la sua vena innovatrice, non c'è quel impeto di creatività che ce l'aveva fatto amare, che ci aveva stupito a ogni film che faceva per una lunga serie di anni, però c'è di nuovo il Tim Burton che sa comunque tenerti seduto sulla poltrona, che sa farti sorridere, che sa raccontare questi emarginati, e la storia lo aiuta, perché certo la trovata non sua, però insomma comunque efficace dell'uomo che vive due secoli dopo, di sicuro aiuta nel acuire quest'ironia. Trovo che Dark Shadow sia comunque un film chiaramente minore di Tim Burton, però potrebbe riappacificare molti fan di Tim Burton dopo gli ultimi anni di sicuro non molto felici. E questo allora era Dark Shadows di Tim Burton, ricordiamo, tratto da una serie TV che in America era molto popolare negli anni 70, in Italia però potete recuperarla in DVD sui siti internazionali, l'edizione americana è reperibile. La Rosa Purpurea. Eccoci qui, Rosa Purpurea, terza parte, Festival di Cannes che irrompe anche nel nostro programma perché sta per cominciare la 65esima edizione del ormai senza dubbio più grande festival e più importante festival del mondo. Sarà un festival dream team, sarà un festival con un parterre de roi, con un concorso e un fuori concorso che negli ultimi anni raramente avevano messo insieme così tanti nomi e così tanti tanti film attesi. Pensiamo ad alcuni nomi in concorso, da Moonrise Kingdom di Wes Anderson, film d'apertura, al grande maestro francese Alain René con Vous n'avez encore rien vu, con Leo Carà, con che ritorna, con Holly Motors, con David Cronenberg e il suo Cosmopolis, tentativo di svampirizzare ancora una volta Robert Pattinson, e poi il nostro Matteo Garrone con Reality, il mio amatissimo Michael Haneke con Amour, e insomma non vado avanti perché se no li diciamo tutti, On the Road, l'attesissimo On the Road tratto da Kerouac di Walter Salles, eccetera, eccetera, eccetera. E poi il fuori concorso con Io e Te di Bernardo Bertolucci, il ritorno del grande maestro italiano, e con Dracula 3D di Dario Argento. Tra l'altro fra poco avremo ospite il grande Claudio Simonetti, autore delle musiche di quello strepitoso e mitico film. Boris Sollazzo, sei rimasto con noi, ti ringrazio per questo, perché volevo un po' con te fare il punto su questo Festival di Cannes. Un'edizione, adesso al di là delle iperboli che si usano giornalisticamente, ma che è davvero imperdibile nel senso etimologico, perché questi film sulla carta, almeno poi tutti i festival sono belli quando li hai visti ovviamente, ma sulla carta questi film sono film difficilmente perdibili, sono film che ci danno davvero il punto della situazione del cinema contemporaneo. Sì, devo dire, volendo fare una metafora calcistica, il Festival di Cannes negli ultimi 10 anni ha deciso la tattica che usa nel calciomercato il Real Madrid: prendere tutto il meglio che c'è in giro e metterlo in programma. Dicevi tu, una edizione imperdibile, e negli ultimi anni è sempre stato così. Sulla carta abbiamo sempre apprezzato il programma di Cannes perché prendeva il meglio che c'era. Dall'altra parte hai sempre l'impressione che ormai ci sono certi registi che possono avere la sicurezza di andare a Cannes, nel senso che Haneke fa un film, quando lo fa sa che andrà a Cannes. Lo stesso Garrone, anche se forse di questi maestri è il più recente, era praticamente già prenotato. Vale per Anderson, insomma vale un po' per tutti, era successo anche in altre occasioni con gli Almodovar e via dicendo. Diciamo che è il miglior pregio e forse il peggior difetto, perché comunque da Cannes forse ti aspetteresti anche un'arena innovatrice, il tentativo di entrare a gamba tesa e di fare scelte che ti stupiscono. Poi mi rendo conto che se hai le risorse e la possibilità di avere dei top player, utilizzando ancora la metafora calcistica, non vedo perché magari dovresti andare a pescare nella primavera, visto che poi hai, e questo va detto, delle magnifiche sezioni come la Canzen, la Semen, ma anche il Certain Regard, che spesso insomma supera anche il concorso come qualità, dove vuoi effettivamente far crescere i giovani autori. Ho l'impressione che questo festival sarà interessante soprattutto per noi italiani, perché abbiamo 3 autori che hanno una sorta di prova del 9. Il primo è Garrone, che si trova nella bella ma difficilissima situazione di dover confermarsi con Gomorra, un regista che probabilmente ha fatto il suo capolavoro, ha aspettato un po' per portare alla luce il suo prossimo film, un film con una tematica non facile, che sostanzialmente va ad analizzare l'Italia grande affratellata degli ultimi anni, e con Reality dovrà confermarsi, dovrà dimostrare di essere diventato un grande maestro. E poi ci sono 2 grandi maestri come Bertolucci e Dario Argento, che, parliamoci chiaro, dissacrando un po', sono stati dati per finiti da molti. Il minimalista Bertolucci con Io e Te, il rutilante Dario Argento con Dracula, ci dovranno dimostrare il contrario. Quindi forse è proprio l'Italia il centro più interessante da cui far partire l'interpretazione, chiaramente ex post, di questo Festival di Cannes. E poi personalmente non vedo l'ora di vedere Cosmopolis di Cronenberg, anche se temo di poter rimanere deluso, però è forse la cosa che più mi intriga, insieme anche all'On the Road di Salles. Parliamo anche dell'italiano forse più atteso, Nanni Moretti a presiedere la giuria. Che tipo di presidente potrà essere secondo te? Ma è un presidente a cui quando si è trovato anche Giulia Venezia ha dimostrato di non avere nessun riguardo, ma lo dico nel senso buono, per impeti più o meno nazionalistici. Quindi credo che sarà un presidente davvero super partes. Sarà interessante vedere come un grande maestro di una generazione giudicherà quello che è forse il regista più interessante dell'ultima generazione di giovani italiani, cioè come la sua autoria tratterà Matteo Garrone. Credo che comunque sarà un ottimo presidente, nel senso che come l'attività che fa col Sacher, l'attività che fa con la sua casa di distribuzione, Moretti rimane comunque un amante del cinema e quindi il più adatto a sorbirsi, tra virgolette, uno tsunami di titoli, una ventina di titoli, e farlo con la massima attenzione. Sono più curioso di capire quali saranno le sue capacità di mediazione, perché poi le giurie di Cannes sono, ci si dovrebbe fare un film sulle giurie di Cannes, perché sono sempre piene di liti, piene di difficoltà. Insomma, che io ricordi, il buon Moretti non è un maestro della mediazione, ecco, in questo senso sono incuriosito, però ricordo sempre che poi forse uno dei presidenti a Cannes che più ha saputo agire con il compromesso era forse il più imprevedibile in questo senso, che era Emir Kusturica, e quindi probabilmente troverà in questo nuovo ruolo risorse inaspettate, probabilmente le troveremo anche noi. Grazie. Allora, Festival di Cannes, lo ricordiamo, che comincia a metà della prossima settimana e si protrae fino a tutto il sabato della seconda settimana successiva, quindi 10 giorni di grande cinema in Costa Azzurra. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, e alla prossima settimana. E adesso giochiamo, poi fra poco Claudio Simonetti con noi, seconda traccia del nostro game. Malico, stiamo pensando davvero? A Malico. Ah sì, io sto spingendo per voi. Un piccolo attico a Parigi sui tetti. La bohème. Sì. Quello che manca è solo la tubercolosi. Allora. Esatto. Già. E allora questa è la seconda traccia del nostro game, la rosa purpura a @radio24.it, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Sono note che hanno fatto il giro del mondo, sono note che appartengono ormai al nostro DNA, non tanto e non solo di cinefili, ma veramente di uomini del Novecento e del 2000. Sono le note, che tutti riconoscerete, di Profondo Rosso, le scrisse e le compose, non smetteremo mai di ringraziarlo troppo per questo. Claudio Simonetti, che è in collegamento con noi, maestro, benvenuto alla Rosa Purpurea. Ah, grazie, grazie. Allora, è stato un intro così per abituare le orecchie ed entrare in atmosfera, ma in realtà per parlare di qualcosa di estremamente nuovo, perché come dicevamo prima anche nel collegamento con Boris Sollazzo, una delle cose italiane che animeranno il Festival di Cannes il 19 maggio fuori concorso sarà il nuovo film di Dario Argento, Dracula 3D, primo horror italiano con la terza dimensione, che rispolvera il vampiro più famoso della storia e per il quale Claudio Simonetti ha ricomposto le musiche. Sentiamole. Simonetti, com'è stato questa volta, tanti anni dopo, e come si riapproccia ogni volta un nuovo lavoro con Dario Argento? Beh, insomma, sì, relativamente tanti anni dopo, perché dopo la separazione con i Goblin, dopo aver fatto Profondo Rosso e Suspiria, io comunque ho continuato a lavorare con Dario. Difatti questo Dracula è il mio 14° film con lui, l'ultimo è stato nel 2007 La Terza Madre, quindi insomma è un rapporto che continua ormai da, possiamo dirlo, ahimè, quasi 40 anni, sono 37 anni che lavoriamo insieme da Profondo Rosso fino ad oggi, quindi ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Dario, insomma, oltre un'amicizia, anche un rapporto di grande fiducia, perché insomma ogni volta lui mi affida le colonne sonore e mi lascia, devo dire, abbastanza carta bianca di poter decidere come fare le musiche, certamente dopo aver parlato insieme, dopo aver discusso sulla tipologia di musica, insomma. E come nasce proprio la prima melodia, la prima traccia sulla quale puoi appoggiare e arrangiare tutta la colonna? Diciamo che per me la parte più difficile difficoltosa è proprio l'inizio, cioè di trovare il famoso, come si dice in inglese, il mood giusto per la colonna sonora, ed è quella la fase più, più dura e difficile. Poi una volta trovato lo stile, trovato il modo, naturalmente il tutto viene aiutato grazie alle immagini, perché insomma, ecco, io lavoro sempre sul film finito, guardando le immagini e componendo la musica sopra le immagini, e quindi una volta stabilito che è partito il film, poi dopo insomma il lavoro va da sé. È un lavoro molto creativo e anche molto tecnico, chiaramente. Come sta Dario a pochi giorni dalla presentazione a Cannes? Cioè, soffre ancora un po' di emozione, diciamo? Ma guarda, neanche a farla apposta, l'ho sentito per telefono mezz'ora fa, e per comunicare appunto il fatto di Cannes, perché anch'io andrò a Cannes, quindi anche per me sarà un'emozione, perché anche per me è la prima volta insomma che vado a Cannes come con un film non in concorso, però comunque presentato a Cannes, e Dario insomma è abbastanza emozionato anche lui, chiaramente, perché normalmente purtroppo Dario, non dico che è stato snobbato, però insomma per molti anni non ha avuto questo invito, insomma poi finalmente gli è stato dato questo giusto riconoscimento per un film che oltretutto devo dire sinceramente è anche uno dei migliori che ha fatto, oltretutto è un 3D molto bello, ha fatto molto bene, grandi attori, quindi il film è, devo dire, molto riuscito. Ricordiamo del Festival di Cannes. Assolutamente, ricordiamo la proiezione il 19 maggio, sarà l'evento della serata. Tra l'altro pare che possa esserci anche Quentin Tarantino. Sì, si è detto che sarebbe stata introdotta la serata da Quentin Tarantino, che oltretutto è anche un ammiratore e un amico di Dario, quindi sicuramente, probabilmente, se sta lì lo farà molto sicuramente. Anch'io sono un grande fan di Tarantino, quindi per me conoscerlo sarà un grande evento. Chissà che non ci scappi anche la colonna sonora. Magari. Ricordiamo che sì. Poi tra l'altro la colonna sonora a giugno arriva in un cofanetto davvero straordinario, tiratura limitata, insomma roba per collezionisti, per cui... Beh sì, insomma, diciamo che in questi tempi duri in cui la gente tende sempre a comprare meno, perché rispetto a almeno quando ero ragazzo io, cioè noi compravamo l'LP perché era un bello oggetto da avere, da possedere. Oggi purtroppo per colpa del digitale, per colpa di questi, diciamo, l'iPod, queste cose qui, uno si trasferisce direttamente la musica dal computer a questi apparecchietti, e quindi il CD diventa un supporto, non dico obsoleto, ma quasi. Per cui si sta tornando infatti molto al vinile, più per collezione che non per altro. E questi cofanetti, queste versioni speciali di CD che per i collezionisti, per i fan, oltretutto appunto, come penso che stavi per dire, in questo caso sarà un'eccezione, perché oltre al cofanetto ci sarà anche il libro. Esatto, infatti, con un libro di Dracula, di Bram Stoker, visto che tra le varie cose, anche a farla apposta, è il centenario quest'anno della morte di Bram Stoker, quindi è una bellissima cosa anche presentare il libro, in modo che la gente possa anche rileggere questo bellissimo capolavoro, che neanche a farla apposta l'ho letto prima di fare il film, ho voluto rileggere il libro, e devo dire che è un libro straordinariamente bello. E allora, Claudio Simonetti, grazie, in bocca al lupo per la serata di Cannes, insomma grazie. Per tutta la musica che ci ha regalato e continuerà a regalarci. Beh, lo spero tanto, grazie tanto anche a voi, e niente, buon proseguimento, grazie. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, quarta e conclusiva parte della nostra trasmissione. Parliamo di cinema da vedere in casa, e come sempre cominciamo con i palinsesti televisivi della prossima settimana. In collegamento con la redazione del settimanale Film TV c'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le nostre segnalazioni. Cominciamo allora, Giulio, con la prima scelta di questa settimana nei palinsesti televisivi in chiaro e quindi gratuiti. Un film che è sempre bello rivedere, che non si rivede molto spesso. Uno dei film della breve carriera dello sfortunato John Belushi. Parliamo di Chiamami Aquila di Michael Apted. Esattamente, lunedì 14 maggio su Rai Movie alle 23:15. Un reporter talentuoso e tabagista accanito viene mandato per punizione sulle montagne rocciose a respirare aria buona e a intervistare un'ornitologa che vive lì in assoluta solitudine per studiare una rara specie di aquila. Una commedia degli opposti tra un animale metropolitano e un ecologista integralista, è brillantemente scritta da Lawrence Kasdan, che in quegli anni sfornava solo copioni perfetti. È una commedia incentrata sul corpo di John Belushi, che qui si addomestica in nome dell'amore. Peccato per la regia piatta di Apted, ma il film rimane comunque un cult anche con il passare degli anni. E questo è l'appuntamento, quindi lunedì 14 maggio Rai Movie 23:15. Venerdì 18 maggio invece, sempre su Rai Movie, c'è la possibilità di vedere un altro grande mattatore del cinema, un antieroe del cinema contemporaneo come Mickey Rourke, in una delle sue ultime e più toccanti interpretazioni, The Wrestler. Sì, venerdì 18 maggio su Rai Movie alle 21, storia di Randy Robinson, mito del wrestling ormai in decadenza, che dopo un malore su un ring di quart'ordine si trova ad affrontare tutti i conti lasciati in sospeso, tra cui quelli con la figlia. Aronofsky, regista di Allucinazioni carnali come Pi Greco e Requiem for a Dream, mette in scena la parabola di un sogno americano che diventa un incubo e di un uomo in un mondo popolato esclusivamente da marginali. Protagonista un Mickey Rourke impressionante, fatto, che aderisce miracolosamente al suo personaggio. Tre anni dopo è già diventato un classico, il film vinse anche il Leone d'Oro a Venezia. E allora The Wrestler su Rai Movie, ore 21 di venerdì 18 maggio. Grazie alla redazione di Fil TV e a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Oh, bene, come vedete sempre grande cinema, anche da poter vedere sul piccolo schermo. Siamo alla terza e conclusiva traccia del game di oggi, sentiamo. Dunque, vi presento uno scrittore, Gil, giusto? Gil Pender. Sì. Hemingway? Ti è piaciuto il mio libro? Piaciuto? Io adoro tutto il suo lavoro. Beh, insomma, qui ci sono nomi, cognomi e anche indirizzi. La Rosa Purpura a @radio24.it, diteci di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Settimana scorsa invece avevamo giocato con un gioco davvero, un film davvero molto molto difficile da indovinare, soprattutto perché è un film purtroppo non frequentatissimo anche dalla televisione, ma un film davvero meritorio. Sentiamo. Devo scrivere a mia madre, quanto resteremo qui? Pochi giorni. Se è vero quello che ha scritto quel Barton, non ci sarà difficile vendere la villa e la proprietà. Non avrei mai fatto questo viaggio se non fossi stato sicuro di liquidare questa eredità in pochi giorni. Quel Barton sembra un tipo così pedante. Si trattava di Viaggio in Italia, capolavoro di Roberto Rossellini. Parliamo del immediato dopoguerra. Lo hanno indovinato e lo vincono, bravi, davvero bravi, Andrea Cipriani di Padova e Umberto Talpone di Pusiano, provincia di Como. Saranno loro a ricevere il DVD di questo film di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, l'opera del 54 di Rossellini rivive in una nuova versione ad alta definizione restaurata da Cinecittà Holding. Sono immagini in bianco e nero molto ben definite, rimane solo una manciata di fotogrammi con alcune trame verticali e minimi danni fisici, l'audio monofonico e quello originale in italiano dell'epoca con una qualità tecnica di resa più che accettabile. Ci sono tanti extra per questa uscita distribuita da CGON Video, con un'intervista a Renzo Rossellini e al critico Valerio Caprara, riflessioni sul film da parte di Martin Scorsese e Carlo Rizzani, documentario dell'epoca su Rossellini, non manca nemmeno la rassegna stampa. Avete visto allora quale think tank si sia accerchiato attorno a questa produzione in un video, perché davvero questa storia di una coppia middle class inglese che vede coi suoi occhi l'Italia di quegli anni è davvero un grande classico. A questo punto noi invece raccontiamo quelle che sono le novità in videoteca, partendo da un vero piccolo capolavoro che è valso una nomination all'Oscar alla sua grande interprete Glenn Coles, non ha avuto poi forse tutta la circolazione che meritava in Italia anche quando è uscito, ma insomma un film assolutamente da recuperare, si intitola Albert Nobbs. Il nostro negozio avrà un grande successo, le persone verranno a trovarci, a prendere il tè con noi nel salotto, il nostro matrimonio sarà una grande meraviglia. Una grande meraviglia? Oh, ci potete scommettere. A volte penso che la testa non vi funzioni tanto bene. Ma che razza d'uomo chiederebbe a una ragazza di sposarlo senza averla mai neppure baciata? Nell'Irlanda del XVIII secolo, Albert Nobbs è un perfetto cameriere che dopo lunga esperienza è approdato presso un prestigioso albergo di Dublino. Dietro le sembianze di un rispettabile gentiluomo, in realtà si cela una donna. Albert è infatti costretta a celare la propria natura pur di lavorare, sognando una felice vita coniugale in compagnia di una bella cameriera dello stesso albergo per cui nutre dei sentimenti. La donna rischierà tutto andando incontro a un tragico destino. Drammatica pièce teatrale interpretata da Glenn Close nel lontano 1982, che la stessa attrice, dopo decenni di tentativi, è riuscita a portare mirabilmente sul grande schermo tra rigore storico e una notevole messa in scena. L'edizione è un video di Videa, sia DVD che Blu-ray. Noi consigliamo l'alta definizione per ritrovare l'atmosfera della sala cinematografica, anche se il disco in alta definizione ha qualche pecca minore legata all'intensità dei colori sui visi. C'è una doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, come extra intervista al regista e al cast. E adesso chiudiamo con un'altra segnalazione. Qui siamo invece in un'atmosfera decisamente B-movie. Il film fa parte della stagione cinematografica corrente, si intitola L'ora nera ed è una sorta di thriller fantascientifico. Sentiamo la clip. Ehi, ci avete aspettato? Sì, non era questo il piano, restare insieme. Certo, grazie. Avete visto il cane? Ha ucciso il cane. Ha ucciso il cane. Fermi, fermi! È il vento! Cerca di controllarti! Chi? Io sono l'unico che non si controlla! Neanch'io mi immaginavo una settimana così, ma almeno io sto cercando di contenermi! Forza, tagliamo di qua! Giunti a Mosca dagli Stati Uniti per affari, Sean e Ben sono testimoni, assieme ad altri milioni di individui, della discesa dal cielo di misteriosi fasci di luce che in pochi istanti prendono a disintegrare qualsiasi essere vivente. Scampati per miracolo al massacro e trovato il coraggio di uscire all'aperto, assieme a due turisti americani, Sean e Ben vagheranno per la spettrale metropoli sino al momento in cui tenteranno una mortale sortita alla volta di un sommergibile pronto a salpare per il mare aperto. Con un incipit niente male, il thriller fantascientifico di Chris Gorak non riesce a mantenere la giusta tensione, perdendosi spesso in situazioni poco plausibili. C'è una completa edizione e un video di Fox Home Entertainment in alta definizione con un'unica proposta che include il disco Blu-ray bidimensionale di strepitosa qualità, un secondo disco con la versione tridimensionale di notevole impatto, ma nella confezione c'è anche il DVD e la copia digitale. C'è un notevole audio DTS in italiano e quello DTS ad alta risoluzione in inglese, veramente da sala cinema. Come extra, due brevi approfondimenti sulla lavorazione e scene tagliate ed estese. E allora grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto! E siamo arrivati, come sentite dalle note della nostra sigla, alla conclusione della Rosa Purpurea di questa settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento fra 7 giorni, il sabato alle 18, la domenica alle 15 e poi le varie repliche notturne, sempre molto seguite devo dire. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleone in regia, un saluto da Franco D'Assisti.